Un messaggero riluttante. Leggo nella Bibbia, nel libro di Giona, capitolo 1, versetti 1 a 3. La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis, e pagato il prezzo del suo viaggio si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Leggo ancora in Giona, capitolo 3, versetti 1 a 3. La parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta, in questi termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama loro quello che io ti comando. Giona partì e andò a Ninive, come il Signore aveva ordinato. Non sempre siamo entusiasti di ciò che Dio vuole da noi. A volte il nostro pensiero corre in direzione opposta al suo. Possiamo quindi capire il comportamento di Giona illustrato all'inizio dell'omonimo libro. Dio gli chiese di andare a Ninive, capitale assira, per avvertirli del giudizio che stava per mandare su di loro a causa della loro malvagità. Ma Giona non aveva nessuna intenzione di farlo. Nell'ottavo secolo avanti Cristo, gli assiri erano infatti già noti per la loro malvagità e per la crudeltà nel trattare i nemici. Inoltre, Giona probabilmente conosceva le profezie di Osea e Amos che lo avevano preceduto. Tali profezie indicavano che la Siria sarebbe stata il mezzo che Dio avrebbe usato proprio per punire Israele. È quindi comprensibile che Giona fosse riluttante ad andare proprio a Ninive a portare un messaggio da parte di Dio. Perché Dio voleva avvertirli e dare loro una possibilità di salvezza? Giona avrebbe preferito, come si comprende leggendo il resto del libro, che Ninive venisse annientata. Giona ricevette un ordine preciso, ma fece tutto il contrario di ciò che Dio gli aveva chiesto. Egli sapeva che gli assiri sarebbero stati un problema per Israele e, spinto dal proprio patriottismo, scelse di non essere proprio lui lo strumento attraverso cui Dio li avrebbe salvati. Giona andò in direzione opposta a quella in cui il Signore lo stava mandando. Era convinto di poter andare lontano dalla presenza del Signore, frase ripetuta diverse volte nel brano. Ma com'è possibile sfuggire a Dio? Il resto della storia dimostra proprio quanto Giona sia stato sciocco nel tentare di fuggire. Infatti il Signore era determinato a raggiungere Ninive con un messaggio che li avrebbe portati al ravvedimento e, per riuscire nel suo intento, non mollò Giona fino a quando quest'ultimo non si arrese alla volontà di Dio. Il protagonista del libro è proprio il Signore, il quale è determinato nella sua misericordia a raggiungere anche un popolo malvagio come gli abitanti di Ninive. E nel suo amore verso Giona lo vuole rendere strumento utile al suo piano di salvezza. Il resto del libro dimostra il modo in cui Dio è riuscito a recuperare Giona, e infatti nella seconda parte del libro, come abbiamo letto, vediamo che Dio gli rivolse lo stesso comando per la seconda volta, ma con un esito diverso. Questa volta Giona non fuggì, ma partì e andò a Ninive come il Signore aveva ordinato. Quanto è stato buono Dio con Giona! Poteva lasciarlo andare, e invece, attraverso diverse prove che lo portarono molto vicino alla morte, riuscì a recuperarlo affinché fosse uno strumento di salvezza. Ti è mai capitato di essere un messaggero riluttante? Magari hai pensato che non sarebbe neanche valsa la pena parlare di Dio a certe persone. Forse le hai viste così lontane e indifferenti da considerarle ormai pronte per il giudizio di Dio, senza alcuna possibilità di salvezza. Eppure Dio, nella sua misericordia, è determinato a portare il suo messaggio di salvezza anche a loro, come ai niniviti dei tempi di Giona, e magari vuole servirsi proprio di te. Che Dio ci aiuti ad essere strumenti utili nelle sue mani, non messaggeri riluttanti, ma gioiosi e di buona volontà.